Il progetto di legge che prevede la parità di diritti e uguale dignità tra uomo e donna sta spaccando in due l'Algeria. Vi è infatti una contrapposizione netta tra gli islamisti, fautori del mantenimento dell'attuale codice della famiglia, e i democratico progressisti guidati dal presidente Abdelaziz Bouteflika. Due in particolare le norme dell'attuale codice, approvato una ventina di anni addietro, che il progetto di legge intende abolire: il tutorato e le disposizioni sulla poligamia. Il tutorato impedisce alla donna di decidere chi sposare. Per farlo deve avere il beneplacito di un membro della famiglia, cioè il tutore, o in mancanza di questo di un giudice, pena l'annullamento del matrimonio. L'emendamento previsto stabilisce invece che il matrimonio è un contratto consensuale tra l'uomo e la donna, stipulato nelle forme legali. Vi si oppongono gli islamisti e i conservatori, sostenendo che il matrimonio altro non è che un'unione tra due famiglie e perciò la soppressione del tutorato, a loro avviso, metterebbe in grave pericolo uno dei fondamenti della religione musulmana. Altro motivo di scontro è la poligamia, peraltro poco praticata in Algeria. Il codice attualmente in vigore consente tanto la poligamia quanto la ripudiazione. Un uomo può avere anche quattro mogli, ripudiarle e riprendersele in qualsiasi momento. Il nuovo codice non abolisce del tutto la poligamia, obbliga però l'uomo a chiedere l'assenso della prima moglie e della futura seconda sposa, per poi ottenere l'autorizzazione di un giudice. Anche questo, secondo gli islamisti, violerebbe un principio sacro della legge musulmana e sempre il nuovo codice, che passerà all'esame del Parlamento nella sessione autunnale, stabilisce un altro importante principio a salvaguardia dei diritti della donna, che in caso di divorzio ed affidamento della prole deve ottenere dal marito o l'uso di un'abitazione o il denaro per affittarne una. Per difendere i loro diritti contro quanti vogliono mantenere in vigore norme tanto assurde e avvilenti, minacciando anche di ricorrere ad un referendum abrogativo, fanno sentire con uguale veemenza le portavoce del mondo femminile. Nadia Ainzai, avvocato, accusa senza mezzi termini gli islamisti di male interpretare il Corano e sottolinea: se occorre passare attraverso l'interpretazione dei testi religiosi per fare adottare gli emendamenti, noi lo faremo. Le feco Yasmin Shuaki, leader di un'altra associazione, contestando agli avversari il monopolio della religione e di essersi arrogati il diritto esclusivo di parlare a nome dell'Islam al fine di meglio imporre la loro legge. Dal canto suo, il presidente Bouteflika ha sottolineato che la legge islamica resta valida in tutto e per tutto, conformemente alla tradizione dei primi esegeti, per cui non vi è contraddizione tra la volontà di salvaguardare i valori culturali e spirituali e l'obiettivo di por fine allo squilibrio e alla precarietà della posizione della donna nei riguardi del codice civile, oltre che di assicurare la protezione dell'infanzia. Ben diversa la situazione nei paesi confinanti di Tunisia e Marocco. In Tunisia l'uguaglianza tra i sessi è stata sancita da Bourguiba nel 1956, il Marocco l'ha riconosciuta alla fine degli anni 90. Franco Chievegatti, di Reporter Associati, per Radio Amisnet.